reportage. L'Europa e le aziende agricole italiane, tra sostenibilità e business, di Valeria Grandi. La sostenibilità ambientale è un dovere che a mio avviso gli agricoltori devono avere. Se non ci siamo noi piccole aziende che siamo attenti anche all'assetto del territorio stesso. L'agricoltura è per definizione un'attività che obbliga chi la vuole fare bene ad una particolare attenzione alla sostenibilità nel lungo termine. A parlare sono tre imprenditori agricoli italiani a cui abbiamo chiesto come stanno affrontando i cambiamenti imposti dalla Politica Agricola Comunitaria 2014-2020, che ha introdotto nuovi criteri di ecosostenibilità a cui gli agricoltori europei dovranno uniformarsi nei prossimi anni. A voce quasi unanime ribadiscono che adoperare pratiche agricole rispettose dell'ambiente non è solo un dovere, ma anche un vantaggio per la qualità dei prodotti e sul lungo periodo per la produttività dei terreni. La sensibilità già molto diffusa tra gli agricoltori italiani sul tema dell'ambiente si scontra però con le difficoltà economiche che le aziende devono affrontare a causa della riduzione dei finanziamenti europei stanziati con la nuova PAC e di regole che non sempre favoriscono efficienza e redditività, come nel caso di Massimiliano Giansanti, che gestisce l'azienda di famiglia tra Lazio e l'Emilia-Romagna con oltre 2.000 ettari di terreno e ha visto una riduzione degli aiuti diretti del 20%. La nostra azienda, proprio per le regole del greening, siamo stati costretti a dover cambiare anche lì il piano culturale. Noi lì produciamo erba medica per alimentare i nostri animali, abbiamo dovuto rompere 2 ettari di medicaio per produrre mais, come se 2 ettari di mais cambiassero la storia del mio allevamento. Non sono i 2 ettari, è solamente una complicazione burocratica. Detto questo, ovviamente laddove gli imprenditori possono, vanno a cercare di limitare la riduzione attraverso i piani di sviluppo rurale. Quindi anche noi stiamo valutando l'ipotesi di aderire ad alcune misure previste dai piani di sviluppo rurale sia del Lazio che dell'Emilia Romagna, proprio per cercare di limitare il più possibile quella che è questa riduzione che abbiamo avuto. E a che tipo di progetti pensate di aderire? Da qualche anno abbiamo iniziato un percorso in alcune aziende che gestiamo adeguandoci a quella che è le tecniche dell'agricoltura conservativa, quindi un'agricoltura a basso impatto ambientale dove si ha una forte riduzione di lavorazioni sul terreno, e quindi pensiamo nell'arco di 2 anni di portare tutti i nostri terreni coltivati con queste tecniche. La contrazione degli aiuti diretti alle imprese agricole italiane è dovuta in parte a una riduzione degli stanziamenti per i prossimi 7 anni della PAC, che rispetto al piano precedente sono passati da 410 miliardi di euro a 370. In più c'è stato un ricalcolo nella distribuzione dei fondi tra i Paesi membri in base a una nuova misura, la superficie agricola utilizzata, un sistema di ripartizione che ha penalizzato l'Italia, riducendo la quota dei sussidi dell'8%, vale a dire circa 4 miliardi di euro. Per compensare questa riduzione, l'Europa ha aumentato il Fondo per lo sviluppo rurale, destinato a progetti cofinanziati da regioni e aziende, ci spiega Giuseppe Blasi, capo dipartimento delle politiche europee al Ministero dell'Agricoltura. Allo sviluppo rurale è stata destinata una dotazione superiore a quella che avevamo nella passata programmazione. In tutto abbiamo 21 miliardi di euro per il periodo 2014-2020. Questi 21 miliardi sono concentrati per 2 miliardi e 2 circa in un programma nazionale che contiene la gestione del rischio, la biodiversità zootecnica e le infrastrutture irrigue. Tutte le altre risorse, che sono oltre 18 miliardi, sono concentrate nei programmi di sviluppo rurale, che servono a sostenere la ristrutturazione dell'azienda agricola, a incentivare l'adesione a programmi, diciamo, di carattere ambientale, a sostenere il ricambio generazionale in agricoltura, quindi attraverso l'intervento in favore dei giovani agricoltori, e a spingere le aziende agricole a diversificare le attività economiche per poter essere competitive, anche se di agricoltura magari ne fanno sempre di meno. Penso ad esempio ad un'attività molto importante per quanto riguarda il nostro paese, che sono gli agriturismi. In Europa, agricoltura e industria agroalimentare danno lavoro a 46 milioni di persone, che rappresentano il 7% del totale degli occupati. L'intero comparto agricolo genera il 6% del PIL europeo, più di settori di punta come quello automobilistico, aeronautico e spaziale messi insieme. Gli incentivi dell'Unione a sostenibilità e sviluppo rurale non possono quindi prescindere dai risvolti economici che questi investimenti hanno sulle aziende. Per avere un'idea di quanto incidono i fondi europei sulla remuneratività degli agricoltori, abbiamo scelto un caso di un'azienda di Reggio Emilia, Villa Iola, con un'estensione di 180 ettari, che produce parmigiano reggiano e dagli anni 90 partecipa a progetti di sviluppo rurale. L'amministratore delegato Paolo Giacomelli ci dice che il sostegno totale agli investimenti è stato di circa 1 milione di euro, grazie ai quali è stato possibile costruire il caseificio, una nuova stalla e partecipare a un programma per il benessere degli animali. Certamente quegli investimenti hanno consentito di migliorare il valore aggiunto grazie al fatto che la trasformazione del latte e la vendita diretta del parmigiano reggiano è stata certamente più positiva rispetto alla semplice vendita del latte. Altrettanto certamente uno dei finanziamenti citati che ha consentito di costruire una nuova stalla per 120 capi ha aumentato la produzione e quindi ha migliorato le economie di scala esistenti in azienda. I finanziamenti sul benessere animale sono stati molto importanti dal punto di vista del miglioramento sia del controllo che della prevenzione delle mastiti. Quanto valgono questi aspetti dal punto di vista dei costi? Diciamo che possono valere qualche punto percentuale. Certamente più importante è l'effetto dal punto di vista dell'organizzazione, cioè le buone pratiche alimentano buone pratiche. Se ci sarà un impatto positivo sulla redditività delle aziende agricole, si potrà quindi calcolare solo a lungo termine, e questo vale anche per le pratiche imposte dal greening, cioè le norme introdotte con la nuova PAC che impongono la diversificazione delle colture e la disposizione del 5% del terreno agricolo ad usi di interesse ecologico, come prati o boschi. Follow the sun. Nell'immediato, il ritorno economico non compensa gli sforzi degli agricoltori, ci dice Roberto Poggioni, proprietario dell'omonima azienda in Umbria, con 100 ettari di terreni adibiti a cereali, ortofrutta e olio. Il guadagno non ci sarà molta differenza, sicuramente ci sarà un vantaggio dal punto di vista agronomico, perché facendo rotazione con colture proteiche, quindi apportatrici di azoto, sicuramente il terreno ne risente in positivo. Però è difficile stare dietro a questa nuova meccanizzazione, perché i costi sono quelli che sono e i ricavi non sono mai adeguati a quello che si spende e che si produce, però dobbiamo farlo perché se no poi si esce dal mercato. A questo punto ci chiediamo se i passi che sta facendo l'Unione verso un'agricoltura più sostenibile contribuiscano davvero a ridurre le emissioni di gas a effetto serra. Insomma, stiamo andando nella direzione giusta? Per avere una risposta dal punto di vista scientifico ci rivolgiamo all'Agenzia Europea per l'Ambiente. Risponde Faustine de Bossé, responsabile per le politiche agricole e la bioenergia. Sfortunatamente, dopo lunghe discussioni tra Parlamento, Commissione e Stati membri, il risultato raggiunto è ancora molto lontano dall'essere sostenibile. Per esempio, molti soldi dei fondi europei verranno usati per sostenere le monocolture di mais, quando sappiamo benissimo che questo tipo di coltivazioni ha un forte impatto sulle risorse ambientali. Abbiamo bisogno di una profonda revisione di tutta la politica agricola per avere la sicurezza che i soldi dei fondi europei vengano utilizzati per sostenere davvero solo le pratiche agricole che rispettano il terreno e le risorse naturali. D'altra parte, è necessario che anche i consumi siano più consapevoli. Non può esserci una produzione sostenibile se i consumi non diventeranno più responsabili. I coltori sono custodi di circa la metà dei territori europei, ma l'altra metà è affidata al resto della popolazione ed è evidente, stando alle parole della comunità scientifica, che una parte non può davvero migliorare senza che lo faccia anche l'altra. Euro Reportage. in collaborazione con Euronet Plus.